Dei fiori c'è un uomo sul rogo, un uomo che brucia e che rimane muto. La gente che passa si ferma ben poco, un bicchiere di vino si scambia un saluto. Ma a Campo dei Fiori la ferita brucia ancora, dopo 4 secoli di sangue, e c'è ancora quell'ombra vestita soltanto di fuoco e di fiamme. A Campo dei Fiori c'è un uomo sul rogo, un uomo che brucia e non dice una parola. La gente che passa si ferma ben poco, un bicchiere di birra e così si consola. Ma a Campo dei Fiori quando scende la sera c'è qualcuno che canta una canzone, e sui tetti di Roma c'è una luna serena che ripete il suo nome. A Campo dei Fiori c'è un uomo sul rogo che fece la fine dell'abbacchio arrosto. La gente che passa si ferma ben poco, un bicchiere di vino e lascia libero il posto. Ma a Campo dei Fiori quell'ombra rimane da sola a bruciare sul suo rogo. La ricorderemo, la celebreremo col ferro e col fuoco. Portandogli un fiore.